Ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi. Alessandro Benvenuti legge Metello di Vasco Pratolini. Quando ci vogliamo spiegare certe circostanze decisive per la nostra vita, ci si risponde che è destino, che è successo, non sappiamo come. Simile al bosco d'estate, c'è una gran quiete, gli alberi riparano dal solleone, è un refrigerio ed un tratto il bosco, tanto fresco ed ombroso, s'accende e col vento che si leva, d'albero in albero, diventa una fiamma sola. Così, un sentimento è entrato dentro di noi, è legna verde ed improvviso brucia. Ersilia non aveva dimenticato né il suo viso né il nome. Ella ricordava Metello con simpatia, diciamo, ignara che il proprio cuore viveva nella sua aspettazione. Tuttavia, in quei giorni, ella prometteva a se stessa un diverso destino. Nel laboratorio dove da qualche tempo lavorava, erano una diecina di donne, confezionavano i fiori finti. Lei era la più giovane, era bella perché aveva 18-20 anni e l'argento vivo addosso, come dicevano coloro che la conoscevano. Il padrone se n'era invaghito, la voleva sposare. Costui era un uomo di 40 anni, educato, sapeva farsi apprezzare. La moglie gli era morta in seguito ad un aborto, e la sua casa, grande, comoda, chiedeva a una donna che tornasse ad abitarla. Ersilia si era lasciata persuadere, ma ancora non le riusciva di chiamarlo Lorenzo. Signor Roini le veniva più naturale. Erano andati a dar parola in municipio codesta mattina, allorché incontrarono un gruppo di dimostranti che gridavano «pane» e agitavano i bastoni. Era gente di San Frediano, del suo quartiere, Ersilia li conosceva. Gente che davvero aveva fame, anche se c'erano dei teppisti in mezzo a loro. C'era Lucchesi, un ladro, uscito da poco di galera, un affamato pure lui. Ma accanto a Lucchesi c'era Ghigo Monsani, c'era Giannotto, c'era Fioravanti, il tornitore, tutti amici di suo padre. Giannotto faceva il muratore. Giovane, sui 30 anni, aveva sposato Anita, con la quale Ersilia era cresciuta insieme, quando era ancora una bambina. Ora faceva la sigaraia, e per la prima volta si trovava incinta, al 5° o 6° mese. «Milano è in mano al popolo!» gridavano. «Alla prefettura! Alla prefettura! Pane! Pane! Sfruttatori del popolo! È venuta la vostra ora!» Ersilia pensò fu un attimo che, guardando bene mentre le sfilavano davanti scalmanati, forse avrebbe potuto scorgere suo padre. E subito fu un attimo, quasi le sembrò di doversi consolare che suo padre fosse lontano di lì, ormai e per sempre al sicuro. Il suo futuro sposo l'aveva strappata per un braccio e fatta riparare dentro un portone. «Ci vorrebbe la forca!» aveva esclamato. Tra i dimostranti c'erano i più giovani, assieme agli anziani. C'era Giannotto, appunto, e c'era Guido Ciappi, un calzolaio, che l'aveva corteggiata e poi era sembrato darsi pace, proprio quando avrebbe avuto più tempo per starla attorno, siccome si era sistemato in uno sgabuzzino accanto a casa. E le donne, per poche che ve ne fossero, erano le più eccitate. Miranda le cappeggiava. Era una sua amica. Era stata anch'essa sigaraia e l'avevano licenziata. Ersilia non si stupì di vederla. Da che le avevano mandato il padre a domicilio coatto, Miranda sembrava morsa dalla tarantola, come si diceva in San Frediano. Tale adesso le appariva, un fazzoletto rosso le fasciava la fronte, aveva le maniche della camicetta rimboccate. «Miranda!» ella chiamò. Il Roini la sospinse dentro l'atrio dove erano riparati. «Ma sei pazza!» le disse. «Era da tanto che covavano quest'uscita, delinquenti!» «Non è vero!» ella disse. «Hanno ragione!» «Io sono una persona che ama la pace, e tu, bambina, dimenticati l'ambiente in cui sei cresciuta, siamo intesi?» Ella non gli poté rispondere. Alle loro spalle era sopraggiunto un uomo che intendeva chiudere il portone. «È il 48, 50 anni giusti, non ve ne accorgete? Prego, prego!» diceva. Aveva la barba brizzolata, un tocchetto nero in testa, era alto, un po' curvo. «Via, via!» li sollecitò. La strada era improvvisamente deserta, coi negozi serrati e le finestre chiuse. All'orizzonte, là dove cominciava Ponte Vecchio, in quella luce e in quel silenzio, si potevano immaginare delle barricate. Sbucò un landò da Via delle Terme, coi cavalli sferzati dal cocchiere e le tendine abbassate. «È la rivoluzione!» disse l'ebreo chiudendo il portone. «Hanno colto le autorità di sorpresa!» «Ma non andranno lontano!» disse il Roini, trascinandosi quasi Ersilia per la mano. «Su, svelta! Faremo in tempo a raggiungere il laboratorio!» Ella si liberò dalla sua mano che la stringeva. «Hanno ragione!» ripeté. «Ascolta bene, Ersilia, ti conviene ubbidire. Non soltanto io sono ancora il tuo principale, ma è come se fossi di già tuo marito. Abbiamo fatto proprio ora le pubblicazioni!» «Oh!» ella esclamò e gli rise in viso. «Valle a scancellare, perché tu te lo puoi togliere dalla mente di diventare mio marito. Ci vogliono uomini d'altro genere per una donna che è nata in San Frediano!» E fu in cotesto preciso momento, si possono mai spiegare certe reazioni, che vivo, parlante, come se fosse il terzo tra loro, ella si era ricordata di Metello. Gli pareva di riudire la sua voce. Ci hanno perfino lasciati i lacci e le cinture. Ora, il quartiere di San Frediano, seppure racchiudeva nel cuore delle proprie strade le pareti del Carmine, prolungava le proprie case fino alle pendici di Bello Sguardo, non era granché diverso da come 15 anni prima lo aveva rivelata agli stessi fiorentini un cronista, avventuratosi tra le sue vie e piazze con l'animo del missionario e la baldanza dell'esploratore. Demolito il vecchio ghetto, costì, il secolare squallore della città sussisteva. Nelle topaie di San Niccolò, nelle piccole corti dei miracoli adiacenti le chiese di Santa Croce e San Lorenzo potevano contendergli il primato. Agli occhi degli onesti, San Frediano rappresentava il punto particolarmente nero, dolente e vergognoso dell'estetica e della morale, dell'educazione, dell'igiene e, diciamo con parole a loro usate, della giustizia sociale. Appena un ponte li separava, se non una strada, da codesta suburra non di meno era un territorio, una repubblica, che essi ignoravano, inorridivano al pensiero di porvi piede. C'è, di là d'Arno, un quartiere dove le facciate delle case, se può darsi tal nome a sì orribili catapecchie, sono, specialmente in certi punti, stonacate, ronchiose, incatorzolite, scabbiose. Gli acquai con sgrondi rotti, tanto che ne dilaga sulla strada, puzzolandola, un fiumiciattolo nero e che mena in sé fecce e lordezze di ogni maniera e lascia sedimenti e il limaccio per dove passa. Gli stessi nomi di quelle viuzze riescono nuovi ai fiorentini più vecchi. Pochi hanno udito parlare della Sacra, delle mura di San Rocco, di Malborghetto, di Via del Leone, del Campuccio. Ci sono case mezzo diroccate, le pareti crepolano da ogni parte, gli affissi sono andati a catafascio. Piuttosto che per porte, vi s'entra strisciando per certe buche a modo di rettili per corridoi così stretti che allargando le braccia i gomiti toccano le pareti. Le casipole sono divise in quartieri di 1 o 2 stanze. Se guardate di fuori, quei tuguri hanno aspetto di doversi sfasciare a ogni momento e cascar nella strada in mucchi di calcinacci. Questo era il luogo. E la sua gente? Un quartiere dove la polizia non va a fare certe operazioni se non a squadre di 12 o 14 uomini. Dove il minimo subbuglio può tirar sulle strade a calcare insieme a un tratto centinaia d'uomini e donne furenti. Vi dico che c'è un gruppo di strade segregate che non servono come arterie di circolazione, ma sono tutte chiuse in sé e vi pullulano i ladri, i manutengoli, vi brulica la marmaglia, la bordaglia, la schiuma, il marame della popolazione insieme a cozzata. Era il quartiere del vecchio Pestelli, e Caco gli aveva trovato il suo migliore amico, quel Leopoldo, ginnasta di circo e caffettiere che una volta, per favorire la fuga di Cafiero, aveva affrontato gli agenti che lo braccavano e presine due per i risvolti della giacca e, sollevateli da terra, gli aveva sbattuti testa contro testa come due burattini finché, appunto come dei pupi, non avevano ripiegato entrambi la testa su di un lato. Era il rione di Quinto Pallesi, di Ghigo Monsani, di Fioravanti, il tornitore, gente che coi ladri, coi mendicanti, coi ruffiani, con gli schedati per delitti comuni, i bari e gli assassini, ci abitava porta a porta, ci beveva insieme, ci giocava a carte onestamente, li trattava e ne era rispettata, ma ci aveva poi per il resto poco in comune. Vi dico che tra questa bruzzaglia ci sono pure centinaia di poverissimi mestieranti, gente che si serba incontaminata al contatto più pestilenziale, scriveva il nostro Magellano. C'erano degli anarchici tra costoro, ora dei socialisti, per questo interessavano anch'essi la questura. La società, da loro, aveva magari di che temere maggiormente, ma a lunga scadenza non si poteva far confusione. Era infine il quartiere dove era nata e dove viveva Ersilia, dove Metello aveva avuto raramente occasione di sostare, sempre incontrandovi tra un'osteria, un bordello e una bottega di trippaio, facce amiche, coscienze pulite e mani faticate. Men che mai egli vi si sarebbe trovato a disagio in seguito venendo ad abitarvi, lui che aveva conosciuto i vicoli e i bassi del Vasto e di Mezzocannone. Ciò, al contrario, lo avrebbe indotto a riflettere che sì onestà e furfanteria, vizio e virtù, prostituzione e amore potevano coesistere, là dove il bene e il male apparivano pur sempre mischiati e indistricabili, era la povertà che li accomunava, rivelando, caso per caso, la naturale resistenza degli uni e il fatale abbandonarsi degli altri. E come bighellonando per Basciuoporto, il suo camerata livornese diceva «Mi sembra d'essere in Darsena a casa mia», lui stesso, tra quella gente e quei vicoli della duchesca e della vicaria, più volte si era scoperto a dire «Ma questa non è Napoli, è San Frediano». Poi, in attesa del silenzio, ridendo del dialetto che gli sembrava ormai di possedere, finivano per convenire che tutto il mondo è paese e l'Italia è incontestabilmente una. La patria esiste, per cui era giusto che compissero il servizio militare. C'era davvero qualcosa e qualcuno da difendere, non soltanto il re e non soltanto le frontiere. Ora San Frediano gli aveva portato Ersilia. Finché Metello rimase alle murate, Ersilia si partì dal suo quartiere di San Frediano per raggiungere via Ghibellina col pranzo chiuso dentro il tovagliolo. Poi, siccome non essendogli parente le avevano negato il permesso di raggiungerlo in parlatorio, ella tornava a casa. Si rileggeva l'ultima lettera di Metello e gli rispondeva. La strada per via Ghibellina non mi è nuova. Capitava ogni tanto anche a mio padre. Non faceva nulla di male. Ma l'avevano preso di mira per via che era stato in Francia e poi implicato nei fatti del 78. Io a quell'epoca non ero nata, sono dell'80, ho 18 anni compiuti. Io invece quei fatti li conosco come ci fossi stato. Fu tutta una provocazione. L'ho letto anche su un libro che mi è servito da sillabario. Tu pensa che appena esco ti sposo. Aspetta a dire esco e ti sposo, potrebbe essere un progetto sprecato. Seppi che ti avevano arrestato. Me lo disse la moglie del Pisacane Martini, è una mia amica. C'era anche la figliola di Fioravanti, il tornitore. Siamo state bambine insieme. Lo sai che hanno arrestato quel giovanotto che si dette tanto da fare per la colletta quando morì tuo padre? Allora venne a salutarti a quel modo. Mi ci portò l'istinto, ma può darsi fosse compassione. Non sono ancora sicura di volerti bene per davvero. Se ogni tua parola ti sbugiarda. Tu mi vuoi lo stesso bene che ti voglio io. Siamo fatti su misura. Mi bastò sentire la tua voce. Più i giorni passano, e son lunghi qua dentro 48 ore, più me ne persuado. Arrenditi all'evidenza. È come quando si è coperti il tetto e uno volesse sostenere che siamo arrivati appena al primo piano. L'evidenza è proprio questa, che tu sei costà dentro e io a malapena mi ricordo il tuo viso. Era un dialogo, con lettere scritte anche di più lontano, mezza Italia e una striscia di mare, siccome egli dove scontare il domicilio coatto. Ella aveva lasciato il laboratorio di fiori finti per staccarsi definitivamente da Ruini. Era entrata come faticante all'ospedale. Non di meno ora poteva ricordarsi del suo viso. Andò dove Metello ultimamente aveva abitato e con un suo biglietto, pagati 3 mesi di fitto di cui egli era in arretrato, prese tutte le sue robe. C'erano, col vestito della domenica e le scarpe che essa gli spedì insieme alla biancheria dopo averla rammendata, delle lettere e cartoline, quelle dei Tinai e quelle di Del Buono e di Chellini, che Metello conservava, e 3 fotografie. «Guarda, leggi, vedrai che non ci sono né lettere né ritratti di donne, nulla», egli le scriveva. «Certo, non mi ci avresti mandato se ci fossero stati. Ma poi, che bisogno c'è che tu me lo dica? Dal momento che ci dovremo sposare. Qualche donna l'ho avuta nella mia vita, sarei un bugiardo a negarlo. Sono un uomo e porto i pantaloni. Ma non hanno contato nulla, nessuna. Eccetto una, e non perché me ne fossi innamorato, ma perché era una creatura particolare e mi fece del bene. Era una vedova, una maestra. La vidi l'ultima volta 5 anni fa. Si era risposata e aveva un figliolo. Da allora non ne ho più saputo nulla, te lo giuro». Ella aveva adesso di lui 3 fotografie, nelle quali, tuttavia, egli non era mai solo. In una stava in gruppo con dei soldati, la Ghega di Napoli, egli gli scrisse, ma aveva gli occhi spauriti, si era tagliati i baffi, era in divisa e lei non lo riconosceva. In un'altra era tanto piccino che appena si distingueva. Al centro c'era uno spicchio di piazza Vittorio, allora in costruzione, con Badolati sulla porta e Metello su per aria, si sporgeva dai ponti. Era un ragazzo, teneva il berretto sugli occhi. Era lui perché lui le diceva, è una fotografia dell'88 o 89, ci deve essere la data. Io sono il secondo in alto a partire da Mancina. Nella terza, la più recente, Lissi lo riconosceva. Accanto a lui c'era Del Buono. Ersilia prese le forbici e lo tagliò. Non voleva testimoni. Aveva messo il ritratto di Metello sul comodino. Gli diceva «Buongiorno, buonasera, un giorno di meno, amore». Poi gli scriveva «Aspetta, di ritorno e ti sposo. Anche ora che ti ho a capo del letto, sono lontana dall'aver preso una decisione. Non ci contare». E gli mandò il suo ritratto, lui insisteva, non ne poteva fare a meno. Voleva andare da Schembosche, ma costa troppo caro, ci si servono le principesse e i cardinali. Ho ripiegato sullo studio Petrelli, che sta in via San Zanobi, ci risparmia e il risultato è uguale. Lo stesso non mi sono bastati 3 giorni di paga, perciò non la sciupare. È la prima fotografia che mi faccio e non mi pare di essere venuta male. Sei venuta come sei, una pittura. Leggo adesso e scrivo adesso, faccio soltanto quello che posso. Vado avanti con poco mestiere e con qualche bicchiere, e vado indietro con tutto il dolore. Passa l'amore, e scrivo adesso, e non capisco se mi ferisco o se invece rinasco. C'è una tempesta di vento e di sale, ed è come il segnale. Tutto il tempo che avevo è scaduto e che devo lasciare. E adesso non mi piango addosso, non ho domande e neanche le risposte. Ho un passo lento, un andare costante e non mi pare pesante questo lungo cammino che porta a qualche posto distante. Vado avanti con poco mestiere e con qualche bicchiere, e vado indietro con tutto il dolore che lascia l'amore. Era il marzo del 99. Passò la primavera e l'estate. Dall'isola egli le scriveva: «Di me ti ho detto tutto. Ora mi farebbe piacere sapere qualcosa di più della tua persona. Va bene che hai preso il carattere di tuo padre, anche se non ti hanno mai entusiasmato le sue idee. Ma come hai fatto a restare la ragazza che sei, abitando da quando sei nato in San Frediano?» «Caro Metello, caro il mio cocchino», ella gli rispose, mascherando nell'ironia il sentimento che l'animava, «non sono un fiore sbocciato sulla mota. Non sono né una mosca bianca né un'eroina. Ragazze come me, che non sono mai state sulla bocca della gente, in San Frediano ne trovi a dozzine, e avrei potuto offendermi della tua domanda. Ma sono sempre in tempo, caso mai ci dovessi ripensare. È il nome che ci siamo fatti per via di Malborghetta e compagnia. Non che non sia vero, è vero e come, ma d'altra parte ti verrà chiaro che restare onesti e puliti non è poi una gran fatica. A quanto ho potuto vedere con i miei occhi, fin da bambina tra le mie strade, chi si è lasciata andare ci aveva dell'inclinazione, o degli esempi in famiglia ce l'hanno trascinato. Fame per fame, patire per patire. A fare le persone per bene si risparmia fiato e sudore, poiché nessuno è cattivo e ti fa del male se non sei tu cattivo e non fai del male. Non c'è né galantuomini né ladri. L'ingiustizia, diceva mio padre generale, ed è proprio così, almeno di qua d'Arno, non so altrove. Ma era di te, della tua persona, che io ti chiedevo. Perché non me ne vuoi parlare? Ho fatto la terza elementare, questo lo puoi vedere da come scrivo. Se c'è un maestro costì nell'isola, fammi mettere il voto, e fagli correggere gli errori prima di passare le mie lettere alla chiacchiera. Il simile farò io con le tue. Dicono che ho conosciuto mio padre per la prima volta che avevo 5 anni, il perché lo sai. Fino a 15 ho aiutato mia madre, e ho sempre fatto la seggiolaia. Poi ho imparato questo mestiere dei fiori, altrimenti sarei entrato in manifattura. E se non ci fossero stati posti, faticante all'ospedale, con la speranza di salire di grado, come ora. Ma non è questo che ti importa, credi che non lo capisca? Ti importa se ho avuto dei fidanzati? Sì, un paio. No, non è vero. Ossia, un paio sono stati più insistenti degli altri. Ci sono andata qualche volta a bere una gazzosa, ma sempre dentro San Frediano. Non mi piacevano e li ho subito staccati. Poi sono stata lì per sposarmi col mio ex principale, ma non era una cosa seria e me ne sono tirati indietro per tempo. Ho ancora da incontrarlo, l'amore. Ma esiste? Se esiste, Silvia, vorrei che tu mi potessi vedere e leggere nel pensiero. Thank you. Così trascorsero mesi e mesi, tanti, perché ella compisse 20 anni. E una mattina, era la vigilia dell'Epifania, il 5 gennaio del 1900, una data impossibile da dimenticare, Ersilia aveva fatto il turno di notte e usciva dall'ospedale. Erano 7 di mattina. Già nell'atrio il freddo tagliava il viso. Fuori il cielo era buio, come se l'alba non si decidesse a spuntare. I lampioni a gas erano ancora illuminati sulla piazza e sotto il porticato, a metà del quale degli uomini stavano attorno a un falò acceso dagli spazzini. Di nuovo il cuore le salì in gola, prima ancora di poter dire a se stessa la ragione. Metello dava le spalle al falò, le mani dietro il dorso. Indossava un cappotto marrone col bavero tirato fin sulla bocca, un cappello dalla tesa grande, calata, ma lo stesso quando egli si mosse già ella lo aveva riconosciuto. Egli doveva avanzare di qualche passo prima di pronunciare il suo nome. Ersilia gli sorrideva, e il suo affanno si era improvvisamente placato. Aveva voglia di piangere, tanto le cantava il cuore. Si dettero la mano. Fu come se lui la volesse aiutare a scendere i 3 gradini del portone, e allorché si parlarono, sembrò riprendessero un colloquio appena loro interrotto. — Ma son sorprese da fare! Arrivavo prima io della lettera, anche se te lo scrivevo. Mi hanno condonato 6 mesi. Era Santo Stefano quando arrivò la comunicazione. Per fortuna il giorno 30 c'era il postale. Sicché sei a Firenze, da 3 giorni. Ma mi hanno lasciato libero soltanto 1 ora fa, il tempo di arrivare in San Frediano e sapere da tua madre che facevi il turno di notte. Camminavano a fianco, e lui disse, «Dunque, ora che mi hai visto in viso, ti sei decisa?» «Sei dimagrito», ella disse, «sei bianco che fai paura, non ti sei nemmeno fatto la barba». E spontaneamente, un gesto tuttavia ardito, ella lo prese a braccetto. Egli disse, «T'accompagno, devo tornare comunque in San Frediano, ho da portare notizia a più di una famiglia, alla moglie e alla figliola di Fioravanti in particolare. È ammalato grave, e con l'età che ha, chissà se lo rivedono». Ma prima entrarono nel caffè di Piazza Piattellina. Lei prese un corretto, lui un grappino. Gli mancava 1 centesimo e lei lo soccorse. Uscendo, egli disse, «Ho un bel coraggio a chiederti di sposarmi, ma tu devi avere fiducia. È stata un'esperienza di cui avrei fatto volentieri a meno, ma di cui non ti posso dire di essermi pentito. Si torna di laggiù con una rabbia addosso, tu sapessi. Riuscirò a smaltirla, poiché d'ora in avanti...» «D'ora in avanti cosa?» ella lo interruppe. «Non giurare. Mio padre non c'è mai riuscito». Si erano fermati un momento poco distante dal caffè, egli la tratteneva alle braccia. «Ora voglio soltanto trovare lavoro e mettere su casa. Ci sistemeremo magari in camera ammobiliata i primi tempi». «In quanto a questo», ella disse, e lo guardava decisamente in viso, le ridevano gli occhi, «i primi tempi corrono fin da ora. Tu dormirai in salotto con mio fratello. Ha 18 anni, ormai è un uomo. Forse se hai sonno leggero ti sveglierà. Si alza alle 3, lavora da un fornaio. E quando ci saremo sposati», aggiunse, «la mamma ci cederà la sua camera matrimoniale, se n'è già parlato». Era giorno chiaro, e via del Leone, desta della sua umanità infreddolita. Apriva il suo fondaco il noleggiatore di Barroccini. Il falegname di già era al lavoro. Passò con la vanga e la zappa bilanciata sulle 2 spalle uno sterratore. Era un uomo anziano, adusto nella persona. In testa aveva un berretto di cencio e una sciarpa di lana incrociata sotto la giacca. Era uno spirito allegro, e disse ad alta voce, «Su con la vita, gente! Stanotte arriva la Befana!» Alessandro Benvenuti ha letto Metello, di Vasco Pratolini. Regia di Francesca Zammarelli. A cura di Fabiana Carobolante con Lorenzo Pavolini. Ad alta voce @rai.it